Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, non viene anche a lei il sospetto che la fretta di concludere l'accordo con Air France sia dettata più dall'esigenza immediata di avere anche i piloti francesi a disposizione, visto che a tanti piloti italiani Alitalia non ha rinnovato il contratto e tanti altri, non avendo rispettato gli accordi sindacali, sono ancora in agitazione sul punto di non accettare? Ogni giorno che passa, senza volare, con migliaia di passeggeri che si ritrovano con i voli annullati, senza considerare poi che in tempi brevissimi, con il 25% nelle mani francesi, sarà la compagnia transalpina a guidare l'Italia, vogliamo ancora credere che tutto questo scempio sia stato fatto in nome dell'italianità della nostra compagnia? Un paese senza etica è un paese che non solo non vola, ma che non si alza neanche da terra. Alberto. Caro direttore, in questi giorni stiamo assistendo al fagocitamento della nostra scassata compagnia aerea da parte di Air France. Da anni i francesi ci provano in tutti i modi e stavolta sembra proprio che ce la faranno e soprattutto si faranno quattro risate alle nostre spalle. È infatti del tutto evidente che se il trasporto aereo è il vettore più importante per far arrivare turisti, noi stiamo vendendo questo fondamentale strumento al nostro più agguerrito e diretto concorrente, dal punto di vista dell'industria del turismo, la Francia. Con il controllo di Alitalia, Air France evidentemente potrà tenere sotto controllo i flussi del turismo in Italia, sfruttando anzi l'appeal che il nostro paese genera, per far passare buona parte dei nostri turisti su Parigi. Che poi l'offerta di Lufthansa sia meno appetibile è a mio avviso la riprova del fatto che gli interessi della Francia siano superiori. La Germania infatti non muove capitali all'altezza di Italia e Francia in questo settore, pertanto la sua offerta è ripulita dal conflitto di interessi. Per la stessa ragione però, a mio avviso, un'offerta di Lufthansa sarà sempre migliore, soprattutto se vista con lungimiranza. Infatti i minori introiti derivanti da un accordo con i tedeschi sarebbero ricompensati da una maggiore autonomia sulle politiche legate al turismo, senza contare il maggior impiego dell'aeroporto di Malpensa. Purtroppo per tutti noi, colui che prenderà queste importanti decisioni strategiche per il nostro paese è il signor Colaninno, il quale, se non ricordo male la vicenda Telecom, fece un'operazione da grande imprenditore, vendendo l'azienda al momento economico migliore, mostrando al contempo le sue caratteristiche davvero squalo della finanza. Maurizio. In questi giorni ho sentito con grande stupore che la nuova denominazione di Alitalia sarà ancora Alitalia. Che menti diaboliche. Ma la CAI ha pensato bene a questa scelta. Ormai in tutto il mondo Alitalia vuol dire scioperi improvvisi, mancata assistenza, ritardi, valigie perse o manomesse, con sparizione di oggetti di valore, eccetera. Forse gli italiani che hanno seguito tutte le fasi della tragicommedia senza fine, subendone anche le conseguenze, sapranno che Alitalia è cambiata. Ma mi domando se in America, Asia o in Africa sanno che c'è stato un avvicendamento di proprietà. La CAI spera che le soste negli aeroporti in attesa della fine sciopero di decine di ore senza la dovuta assistenza siano dimenticate? Poveri illusi. Al posto loro avrei trovato molti altri nomi che neanche lontanamente facessero ricordare le vicissitudini della vecchia Alitalia. Ma tant'è. Mi domando, la furbizia italica, che emerge in ogni dove e in ogni occasione, dov'è finita? Ahimè, vuoi vedere che ci stiamo perdendo pure quella. Con tutti gli altri auguri fatti a destra e manca per il nuovo anno, facciamoli pure all'Alitalia. Uno in più non guasta di certo, ma me d'obbligo dire con rammarico povera Italia, o meglio, povera Alitalia. Fabio. Caro direttore, mi sono trasferito da qualche mese a Varese per motivi di lavoro e ho affittato una stanza in un appartamento che condivido, fra gli altri, con un palestinese della città di Nazareth. Non le nascondo che le differenze di lingua, di cultura, di religione esistono e pesano fra un italiano e un palestinese oggi. Ma dopo le prime diffidenze hanno prevalso le cose che ci uniscono, piuttosto che quelle che ci dividono. Così ho condiviso con lui, si chiama Ahmed, le ansie dell'esame per l'ammissione alla facoltà di medicina, l'esclusione dapprima conseguente alla sua posizione in graduatoria, l'incredibile forza di volontà che lo spinse a contattare tutte le facoltà di medicina italiane per verificare una disponibilità ad accoglierlo nei corsi di studio e infine il sapore della vittoria, allorquando la graduatoria qui a Varese slittò, sino a raggiungerlo e consegnarlo alla tanto agognata iscrizione. L'ho visto studiare per ore e ore, continuamente, disperatamente, per sormontare le difficoltà della lingua, dei tecnicismi medici e nelle scelte di vita quotidiana. Abbiamo spesso confrontato le nostre opinioni su questioni importanti, quale l'elezione di Obama alla presidenza statunitense, grande speranza per tutti i non occidentali, del minaccioso armamento iraniano, delle tragedie irachene, della disperazione dei palestinesi dei territori occupati. Non voleva andare in Israele per la pausa natalizia per non perdere ore preziose di studio, ma sua madre, le mamme sono la vera identità comunitaria del mondo, ha insistito. Voleva rivedere suo figlio, riabbracciarlo. E così è partito. E non è ancora tornato. Mi mancano adesso le nostre chiacchierate internazionali. Mi manca il tipico odore delle spezie arabe che si spandeva dalla cucina in tutta la casa. Mi manca la sua presenza. Vorrei condividere con lei, caro direttore, la mia apprensione per questo mio compagno di alloggio, per i pericoli che vive in questo momento con la sua famiglia, per la difficile vita che conducono i palestinesi in terra di Israele come in terra araba. Ospiti, rifugiati, comunque corpi estranei in un mondo che invece è il loro e che non trova pace. Dov'è Ahmed adesso? Cosa sta facendo? Quali rischi corre? E perché non torna ancora? Io lo aspetto. Con ansia, aspetto il mio amico Ahmed, Gustavo Varese. Ho visto un volantino, diffuso dai Verdi di Livorno, che invita i cittadini a boicottare i prodotti israeliani, specificando come riconoscerli in base al codice a barre. Premetto che sono un tesserato dei Verdi e che forse dopo questa roba qui restituirò la tessera. Deduco che gli ambientalisti italiani abbiano perso l'occasione, dopo la batosta arcobaleno, di ridiventare una forza trasversale che avrebbe potuto attingere a un fortissimo bacino d'utenza, presente anche tra i moderati o nel mondo cattolico, e che ha a cuore le sorti del pianeta. Insomma, una galassia di persone che si potrebbe riconoscere in Al Gore, ma che apprezza anche numerose opinioni del Papa in tal senso. Persone che però non tollerano integralismi stupidi e beceri e che, soprattutto, non comprendono certe prese di posizione che nulla hanno a che vedere né con l'ambiente, né con il buon senso, né con la storia contemporanea. Deduco inoltre che di stupidi nel mondo ce ne sono davvero tanti. Un caro saluto, Maurizio, Livorno. Il popolo palestinese resta ostaggio di una situazione complessiva ormai cementificata. Gli avvoltoi iraniani usano la questione palestinese per dividere ed imperare nell'area arabo-mediterranea e per salire nel quota internazionale. Gli avvoltoi siriani, che hanno riacceso la miccia della polveriera palestinese, facendo implodere ancora una volta il pacifico Libano ed esplodere il caos nei territori occupati e in Palestina, e l'eccessiva reazione israeliana verso Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica, definizione ufficiale dell'UE, che tutto ha come obiettivo tranne la realizzazione di uno Stato libero e autonomo palestinese. Altrimenti perderebbe i finanziamenti di Siria e Iran, e Hamas e i suoi membri non potrebbero più vivere grazie alla morte dei loro stessi fratelli palestinesi. Signori, il nodo della questione palestinese è tutto lì. I palestinesi sono un popolo sfortunatissimo, certamente, ma sono anche ostaggio delle beghe della politica estera ed interna, di ogni organizzazione parapolitica o terroristica. Infatti, gli avvoltoi che si nutrono della questione palestinese sono tanti ed esistono anche in Italia. Come se ne esce? I palestinesi debbono uscirne da soli, scegliendo di abbandonare la pista terroristica di Hamas e dei gruppetti terroristici similari, finanziati da Siria e Iran, e forse anche dalla Russia, da sempre antisemita, che sta fornendo armi e tecnologie direttamente all'Iran e indirettamente alla Siria, capaci di colpire nel cuore lo Stato di Israele. Il passo successivo è il riconoscimento reciproco fra israeliani e palestinesi come realtà umane, statuali e nazionali. Bisogna poi confederare degli stati israeliano e palestinese al fine di ottenere un cappello israeliano per la difesa dei limiti nazionali del nuovo Stato palestinese, poiché Siria, Iran e Russia, gli avvoltoi, tenterebbero immediatamente di destabilizzare il nuovo Stato autonomo palestinese. Sì, perché sono loro ad avere forti interessi in questo. Al contrario di Israele e Stati Uniti, come qualche distratto idiota scrive e pensa. Ad Israele, se volesse lasciare indefinita e irrisolta la questione palestinese, non resterebbe che stare ferma, contando sul sicuro aiuto di Siria e Iran e non degli States. Israele, infatti, al contrario di Hamas e di alcuni stati canaglia, vede da sempre con favore la nascita di uno Stato libero e moderato palestinese, da frapporre fra sé gli Stati arabi che appoggiano il terrorismo e destabilizzano quotidianamente le libere democrazie di Palestina e in Libano. Infatti, appena la diplomazia israelo-palestinese arriva ad un passo dall'accordo, ecco spuntare i missili. I missili israeliani che uccidono i palestinesi? No, quelli diretti in Israele, quelli diretti a sollecitare una reazione che infici la nuova speranza di vedere sorgere uno Stato autonomo del popolo palestinese. Libero dalla cattiveria, dall'insulsaggine fondamentalista, dalle spinte negative esterne dei paesi arabi immoderati, dagli avvoltoi. E ora, Veltroni chieda scusa agli italiani, agli israeliani e ai palestinesi e faccia invece proposte concrete e intelligenti sulla questione della crisi energetica italo-europeo-russa, se ne è capace. Lettera firmata. Non sono certo un estimatore dell'Islam e delle sue manifestazioni più lontane dal mondo occidentale, come la tendenza all'integralismo, il ruolo della donna, l'intolleranza verso altre religioni. Ma non sono neppure d'accordo nel considerare le nostre strade, Piazza del Duomo compresa, dei luoghi sacri ai cattolici e destinati ai loro riti. Da laico, credo comunque che una preghiera in qualunque luogo avvenga debba essere benvenuta. Comunque preferibile a manifestazioni di profondo degrado che nella stessa piazza per molti anni abbiamo visto e sopportato con molto meno scandalo, come le centinaia di persone che la sera occupavano la piazza per ritrovarsi a bere birra, lasciando migliaia di bottiglie sul posto e riempiendo i muri di urina. L'incapacità di reagire, far rispettare le regole civili, quello sì, mi preoccupa molto. Compresa naturalmente la necessità di far accettare ai nostri ospiti, anche islamici, le regole del nostro modo di vivere, tra le quali però non inserirei il divieto di preghiere in pubblico. Gianfranco. Gentile direttore, il generale De Gaulle disse una volta che gli italiani devono essere della gente veramente in gamba se riescono a sopravvivere, e non solo, con i governanti che si trovano o si scelgono. Al generale deve essere costato uno sforzo enorme fare una considerazione di tal fatta, ma aveva fatto centro. Ho sperato ad ogni nuova elezione in un cambiamento, una delusione dopo l'altra. Sarebbe bastato un piccolo segnale, senza tante gride e vituperi. Dimezzare il numero dei parlamentari di Roma e di Bruxelles e adeguare i loro emolumenti a quelli degli altri paesi. Col risparmio che si sarebbe potuto ottenere con 3 deputati in meno, i cechi avrebbero avuto i loro libri in Braille, tanto per fare un esempio. Non è tanto la crisi che ci fa vivere male, ma il vedere lo spreco, il cattivo uso del denaro pubblico, eccetera. Qualcuno ha protestato per Gomorra, candidato all'Oscar, ma quel qualcuno ha pensato all'effetto delle immondizie a Napoli? Ci vorrà una generazione prima che all'estero se ne dimentichino. Qui, nell'Alto Veneto, ricicliamo fino al 70%, ma amici stranieri mi domandavano se potevano venire. Gli amministratori di tanto sfascio dovrebbero dimettersi in massa, vestire un saio e andare a dare una mano ai profughi del Darfur, Chad, Congo, Uganda, eccetera. Corriamo grossi rischi perché l'esasperazione non fa ragionare. Non crede che Radio 24 potrebbe ricordare ogni giorno che i nostri parlamentari e politici in massa guadagnano di più di tutti gli altri e quindi bisogna tagliare, tagliare, tagliare? Non crede che se i guadagni fossero inferiori e le possibilità di farcela vaghissime, ci sarebbe meno brama di poltrone? Mi dia una speranza, la prego. Lettera firmata. Salve, sono un possessore della carta acquisti, alias Social Card, nonché padre di 6 figli, tutti minori. Vorrei sapere quando potremo usufruire del credito promesso, sia pure esiguo, dal governo, cioè i 120 euro per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008, a tutt'oggi inesistenti. Se l'intenzione era quella di incrementare le spese natalizie, direi che non ci siamo. Aggiungo anche un ulteriore sfogo riguardo al bonus famiglia, unicamente destinato ai lavoratori dipendenti. Bene, perché chiamarlo così? Pensano forse che le partite IVA non possano avere famiglia? E dove sta scritto che se la passano meglio dei lavoratori dipendenti? Con l'ISE che mi ritrovo, anche la moglie è a carico, potrei usufruirne, ma purtroppo ho la partita IVA. Marcello. Gentile direttore, ma che succede? Ci avete parlato per mesi del surriscaldamento globale e ci troviamo di fronte a un inverno in cui non smette almeno al nord di nevicare. Ci avete parlato di crisi economica e poi scopriamo che nelle vacanze di Natale gli alberghi avevano il tutto esaurito e altrettanto pieni erano gli aerei per le spiagge esotiche. Ci avete detto che era impensabile trovare un'alternativa ad un petrolio sempre più caro ed ora il prezzo del petrolio è sceso da 150 a 50 dollari al barile e i veri problemi li abbiamo con il gas. Dobbiamo continuare a credere alle radio, ai giornali e ai giornalisti. Vincenzo. Caro Vincenzo, le sue osservazioni sono sicuramente interessanti e meriterebbero ognuna non una piccola risposta, ma un'intera trasmissione. E in effetti di clima, di crisi economica, di energia, ne continuiamo a parlare ogni giorno a Radio 24, così come sul Sole 24 Ore. Ma lei in fondo vuole sottolineare soprattutto una cosa, il fatto che spesso i giornalisti si limitano a raccontare quello che vedono e a riportare quello che sentono e spesso non scavano per cercare i dati reali e la vera natura dei fenomeni. È una critica che possiamo accettare, ma non possiamo dimenticare che la realtà è sempre più complessa di come noi possiamo descriverla. E mi creda, non basta certo qualche nevicata per smentire la gravità dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, così come non basta un'ondata di turisti per smentire la realtà di una crisi economica che è fatta, purtroppo, di cali dei consumi e di chiusura delle fabbriche. Quanto al petrolio, il fatto che ora le difficoltà derivino dal gas russo dimostra ancora di più come sia necessario diversificare le fonti e risparmiare energia. Giornali e giornalisti hanno quindi certamente tanti difetti, ma cercano quasi tutti di fare il loro dovere con passione. Forse dovrebbero evitare di fare troppe previsioni. Farle è estremamente facile, azzeccarle terribilmente più difficile. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.